X24 di Giovanni Minoli. Siamo qui felici a presentare il dottor Stefano Parisi. Nasce una comunità politica nuova. Non condivido il progetto di costruire un ulteriore partito. Il centrodestra ha bisogno di unità, di compattezza. Il centrodestra oggi è un luogo frastagliato. Pensiamo che sia importante che in Italia ci sia un'alternativa di governo liberale. Parisi, l'uomo nuovo dai toni liberali, non convince fino in fondo le tante anime del centrodestra. Noi non saremo più schiavi di nessuno, di Berlusconi o di Forza Italia. Il centrodestra, come al solito, diviso. Presidente Luca Zaia, buongiorno. Siamo contenti, buongiorno, di averla con noi questa nostra prima puntata di rientro di Mix 24 con Mario Secchi, Pietrangelo Buttafuoco, buongiorno, e la regia. Ecco, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei, presidente. Intanto, prima di entrare nel merito della politica, la storia, prego, ha più fantasia di noi, come dice mia figlia, perché siamo a Lega contro Lega, mi pare, dopo la consultazione del Canton Ticino. Ma sa, padrone a casa nostra, lo si deve dire fino in fondo. Io avevo uno slogan nel 2010 che era prima il Veneto, penso di essere stato colui che ha coniato per primo questo slogan. Ma adesso capisco, prima Canton Ticino, quindi bisogna difendere prima gli immigrati italiani. Ma è una partita assolutamente importante quella del Canton Ticino. Ovvio è che non va liquidata come una banalità, questo sì. Appunto, bene. Vabbè, entriamo in Italia, lasciamo il Canton Ticino per un momento, intanto ci sarà modo di tornarci. Spesso, lei governa una delle regioni più ricche d'Italia, ecco, però l'elettorato ha un problema, il centrodestra non c'è più e manca il candidato premier per il 2018. Sarà Stefano Parisi l'uomo incaricato da Berlusconi di rimettere insieme i moderati? Sarà lui? Guardi, mi lasci dire, direttore, che per me, per come lo pensiamo noi, il centrodestra non esiste più, nel senso che la politica del futuro, quello che ci aspettiamo, è una politica dove ci sono due grandi correnti di pensiero, quella centralista e quella autonomista, che è quella che pensa, come diceva Einaudi, che ognuno dovrà avere la propria autonomia, l'autonomia che si spetta, diceva Einaudi. Per cui restare relegati in contesti di centrodestra e di centrosinistra la vedo sbagliata. Cioè, non serve essere elettori di centrodestra per difendere la legittima difesa o per pensare. Però essere federalisti vuol dire essere estremisti verbalmente, come fa il vostro leader? No, guardi, il federalismo ormai è un concetto acquisito. Quando 20 anni fa, quando i leghisti parlavano di federalismo, lei lo può ricordare, tutti, certo, dicevano che eravamo razzisti. Oggi la verità è un'altra, che il federalismo è un concetto acquisito e si dà come partita assolutamente da perseguire. Ecco, ma il candidato di Palazzo Chigi, come pensate di sceglierlo? Allora, con le primarie? Diciamo che il passo avanti saranno le primarie? Sì, partirei da un presupposto e iniziare a scrivere un progetto di governo che sia un progetto serio, che, certo, non usi tanti condizionali e magari cominciare anche a pensare che i progetti di governo debbono essere quasi come dei progetti di legge, anche con una tempistica e un cronoprogramma, altrimenti i cittadini non ci capiscono più niente. Sì, però di fatto il centrodestra dal 2001 a oggi ha perso 11 milioni di voti e quindi in qualche modo avete lasciato i vostri elettori da soli, senza rappresentanza. Come si pensa di recuperare con questo cronoprogramma, secondo lei? Ma guardi, in Veneto non abbiamo perso voti. No, io parlo complessivamente del... Lo diceva lei all'inizio, sì, che il Veneto non è una regione da poco. No, è molto importante. Che è riuscita a portare a casa un voto su due dei veneti sul nostro progetto di governo. Bisogna partire da un progetto di governo serio. Ecco, lei... Resto... Prego. No, prego lei, scusi. No, dicevo, del resto siamo in un contesto cambiato, glielo dicevo all'inizio, basti pensare che abbiamo un segretario di un partito di sinistra, che è Renzi, che ha parlato per molto tempo un elettorato moderato che mai avrebbe votato a sinistra. Ecco, però lei intanto dice facciamo un referendum per andare nel concreto appunto della gestione del Veneto, dice facciamo un referendum tipo Brexit per l'immigrazione e per l'autonomia fiscale. Ecco, ma sull'immigrazione... Adesso il governo ha scelto di coordinare a Palazzo Chigi tutte le politiche di immigrazione. Vuol dire che il ministro Alfano non c'è più? Ma che il ministro Alfano sia commissariato da questa decisione penso che l'abbiano capito tutti. Ma la cosa più grave non è questa. La cosa più grave è che Renzi avvocando a sé tutte queste competenze, dimostra che fino ad oggi abbiamo sbagliato, anzi hanno sbagliato tutto. Beh, forse si sperava qualcosa di più dall'Europa, no? Dall'Europa ci si aspetta poco. All'Europa io toglierei anche il premio Nobel per la pace che gli hanno dato, perché un'Europa che gestisce così la politica migratoria girandosi dall'altra parte non merita il premio Nobel per la pace. Però dico anche che basterebbe leggere i punti dei tre governatori sull'immigrazione per capire che qualsiasi realtà che va a governare applicando quei punti comunque porta a casa dei risultati, che sono anche per alcuni aspetti sono anche ovvi, no? Il creare i centri di prima accoglienza nei paesi del Nord Africa l'abbiamo fatto anche in passato. Oggi la notizia di oggi è che mancano 600 milioni di euro per pagare i 160.000 profughi che sono in Italia. Con 600 milioni di euro in Africa facciamo effetti speciali in quei centri di prima accoglienza. Senta, governatore Zaia, Renzi adesso dice andiamo da soli, magari un po' tardi, oppure è difficile o è una battuta elettorale, che cos'è? Renzi deve capire che la vita... No, ma andiamo da soli, va bene o no, secondo lei? No, la vita di governo non è che si liquida con gli slogan. Noi no, d'accordo. Se intende andiamo da soli rispetto alla partita dell'immigrazione... Rispetto a quello lo dice, sì. Guardi, certo. Noi abbiamo dimostrato con il nostro governo nel 2011 di aver avuto 63.000 ingressi con la primavera araba, e non è stata una partita da poco, e aver rimpatriato 13.000 persone. Il messaggio che ha mandato Renzi fino quindi, ad oggi è... E quindi è come lei, va bene, andiamo da soli a livello nazionale, andrebbe bene, addio Europa. No, guardi, lui è come noi, noi lo stiamo dicendo da anni... che bisogna andare da soli, che bisogna gestire questa partita. Il problema è che Renzi ha sempre venduto suggestioni rispetto al tema della gestione degli immigrati. Oggi siamo nel totale caos. Ma quella dello Stato centralista contro quello federalista è una guerra i cui risultati, per esempio in Veneto, voi dove li misurate? Per essere concreti, che lei parla sempre, da una parte la scuola statale fa schifo e dall'altra Bravo. Parte la sanità invece è fantastica. Però, insomma, non è che sono tutti d'accordo. Beh, vorrei trovarne qualcuno che non è d'accordo. Noi gestiamo una sanità che è tra le prime del mondo ed è una competenza diretta di fatto che abbiamo. E ciò che gestisce lo Stato in Veneto va male, cioè penso... alla figura da Repubblica delle Banane che stiamo facendo nelle scuole. Parlavo l'altro ieri, io ricevo tutti i ragazzi, un ragazzo del liceo che mi dice ho già cambiato tra insegnanti di latino, cioè, certo. e la scuola è appena iniziata. Penso che questa non sia una grande gestione. Cioè la però buona scuola non c'è? Beh, direi proprio di no, ma non lo dico io, lo dicono tutti. No, ma io chiedo a lei dal suo punto di vista. Secondo me no, e le dico anche di più, le dico anche che e a questo punto varrebbe la pena di pensare delle due l'una: o si aprono le scuole a settembre sapendo che ci sono tutti gli insegnanti, se no, se eviti da figurarci, ci prenderemo un mese in più ad ottobre, ma che i ragazzi quando vanno a scuola abbiano gli insegnanti. Non so se le mamme sono tutte contente dell'apertura a ottobre delle scuole, no, visto non, la gestione guardi. Del mese di settembre problematico che si trovano a fare. Il problema, a parte che molti non sarebbero contenti, ma ci sarebbe un grosso punto di domanda che magari anche ad ottobre non abbiamo gli insegnanti. Senta, Presidente Zaia, ma non è che ci sta facendo lei un pensierino fare il leader del centrodestra? No, guardi, assolutamente no. E le dirò anche di più, questa è una manfrina. Cioè se glielo chiedono dice no, diciamola così. Sì, sì, assolutamente no. È una manfrina che mi sta... Guardi che glielo ricorderò quando la nominano. Lei me lo può ricordare a vita, guardi. E io sono molto chiaro e diretto. Lo so. E il problema è che ogni cosa che noi facciamo, che io faccio dal punto di vista di governo regionale, ormai ha tutti i retropensieri, le seconde letture, e quindi rischia di penalizzare noi veneti. Se chiedo una strada, la chiedo perché serve ai veneti, non perché dobbiamo fare una campagna elettorale per le primarie del centrodestra. Senta, questo deve essere chiaro a tutti. Senta, Presidente Zaia, che abbiamo qui come sempre Mario Secchi e Pietrangelo Buttafuoco. Mario, buongiorno. Una domanda per Zaia. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, una domanda secca. Ho sentito Salvini appunto dire mai più schiavi di Berlusconi. Ma quindi prima eravate schiavi del Cavaliere? Perché io ricordo che Bossi nel 94 lo fece cadere. Com'è sta storia? Beh, io penso che l'espressione, poi no, io non sono chiamato a dare letture autentiche di quello che dice il segretario, però l'espressione fosse riferita al fatto che comunque nella storia della Lega ci sono stati dei momenti nei quali abbiamo, fra virgolette, subito l'alleanza e in altri nei quali ci siamo fatti sentire di più. Di più, questo momento nel quale ci possiamo cedere sicuramente con in maniera paritetica e serena al tavolo delle trattative. Senta, Pietrangio, tu che cosa chiedi a Zegna? Eccomi, buongiorno, vorrei tornare... Buongiorno, più che alle scuole, all'università. La domanda è questa. Univeneto, cioè il progetto di mettere insieme gli Atenei di Padova, Venezia e Verona, che creare quindi la grande università europea in Veneto, si farà? Guardi, erano i primi giorni di aprile 2010, quindi ero eletto da, penso, 4-5 giorni. Il primo incontro ufficiale che ho fatto l'ho fatto con i rettori. E già allora parlavano di questa fondazione. Spieghiamo che Univeneto non è roba della regione, ma è una fondazione, un'associazione che debbono fare le università del Veneto. Io spero di sì. Se vogliamo parlare di Politecnico della regione del Veneto, se vogliamo candidarci, come è accaduto in queste ore, al 4.0, per fortuna ci siamo riusciti, e quant'altro, bisogna capire che da soli si fa prima, ma assieme si fa molto più strada. Senta Presidente, prima di chiudere, Laura da Treviso. Prego. Ci scrive: chiedete a Zaia perché in Veneto lui predilige le grandi opere rispetto agli aiuti alle famiglie con soggetti autistici. Laura da Treviso. Posso dire alla signora Laura, intanto, se mi vuoi chiamare, 041 279 2863, 041 279 2863. Ottimo. A me non risulta sia così, perché di grandi opere non ne stiamo facendo. L'unica grande opera che abbiamo in questa fase è la Pedemontana Veneta, che è un'opera la cui gara si è tenuta nel 2009. Quindi... molti veneti invece pensano che il Mose sia un'opera nostra, non è un'opera della regione, ma un'opera dello Stato. Senta Presidente, ultimissima domanda: voi siete per il no al referendum, ma se vincesse il sì, secondo lei che conseguenze potrebbe avere sul centrodestra? Immagino che lei non lo ipotizzi la vittoria del sì, ma se per caso. No, guardi, io non la ipotizzo, le dico semplicemente che se vince sì, i cittadini debbono sapere che vince un modello di Stato che è centralista. Per carità, è una corrente di pensiero, ma è deflagrante in territori come i nostri. Grazie. Per il centrodestra significherebbe comunque aver perso una grossa partita. Certo. Grazie Presidente, buon lavoro la prossima volta. Mario, tu pensi che il centrodestra avrà un futuro con Parisi oppure no? Allora, il ruolo di Parisi è molto delicato, è un ricostruttore, non so se sarà il leader. Aspetta che devo dare i numeri, sì, che mi sono dimenticato. Vai. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, scusa, continua. No, dicevo, Parisi ha il ruolo del ricostruttore, non è detto che lui poi sia il candidato a Palazzo Chigi. Secondo me è utile, perché comunque ci sono i numeri che contano. Il centrodestra ha perso 11 milioni di voti dal 2001 a oggi. E sulla leadership si giocherà una partita in cui ovviamente conta molto la parola di Berlusconi, ma potrebbero anche arrivare forse a fare anche perfino delle primarie che non si sono mai viste. Sicuramente è positivo. Tieni presente, questo è abbastanza logico, ma bisogna sempre ribadirlo, che un'eventuale vittoria del no al referendum accelererebbe il processo di ricostruzione del centrodestra. Secondo te Pietrangelo è Parisi o no? E Parisi nei fatti, perché quello che detiene la maggioranza delle quote è Berlusconi, e sì, Berlusconi ha detto Parisi. Il problema sono gli elettori. Io credo che più che il risultato del referendum è molto importante capire cosa accadrà al Movimento 5 Stelle, perché quegli 11 milioni di persone che hanno abbandonato il centrodestra adesso votano per il Movimento 5 Stelle. Se riuscirà a governare, se riuscirà a gestire le situazioni in cui amministra, allora il discorso cambia. Sarà molto difficile per il centrodestra ricominciare. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Andiamo. Donald Trump è cattivo. Donald Trump è una brutta persona. Ma io ho maggiore esperienza sia come senatrice che come segretario di Stato. Penso che sia patetica. Dovrebbe essere in prigione per quello che ha fatto con le mail. Lui non è qualificato per diventare capo dell'esercito. Se stai leggendo un discorso è molto più facile, la gente se ne accorge. Parlando di Donald Trump, ti ha mai permesso di toccargli i capelli? Non perderemo più, vinceremo alla grande. Sarò la prima donna presidente degli Stati Uniti d'America. Vabbè, lo vedremo. se sarà la prima donna presidente degli Stati Uniti. Intanto questa sera Hillary e Trump si sfideranno nel duello televisivo in previsione delle elezioni, il primo dei tre importantissimi duelli che potrebbero, anzi forse decideranno, le sorti della prossima presidenza degli Stati Uniti. Si prevedono 100 milioni di ascoltatori attaccati alla televisione. Daniele Doglio, professore d'economia dei media presso l'Università di Bologna, ecco, quali sono le previsioni che si fanno sugli effetti dell'esito di questa sera? Insomma, quanta America sarà incollata alla TV stasera? Beh, lei sa meglio di me che le previsioni in questi casi valgono poco, perché i conti sulle audience si fanno dopo. Certo, naturalmente. C'è un dato di fatto che comunque negli ultimi anni, le ultime elezioni, il dato di ascolto televisivo è andato calando. Senta, professore, le faccio risentire uno spezzone preso dal film Frost Nixon. Senta qua. Vorrei mettere un fazzoletto qui, se è possibile, è fuori dall'inquadratura. Va benissimo, signor Presidente. Contrattualmente mi pare che ci siamo accordati sul fatto che dopo ogni domanda io possa tamponare il mio labbro superiore prima di rispondere. Questo si vedrà una volta montato il tutto. Credo che lei sia al corrente del mio problema con la traspirazione. Si riferisce al dibattito televisivo con Jack Kennedy nel 60. Dicono che l'imperlatura sul mio labbro superiore mi costò la presidenza. Le persone che l'avevano seguito alla radio, per loro avevo vinto, sì. Ma la televisione, i primi piani, quelli che erano dei significati tutti loro. Ecco, professore, il labbro sudato di Nixon gli costò la presidenza, il primo piano della televisione l'aveva inchiodato, è vero o è leggenda? Ma lei sa che addirittura girava voce che ci fosse un complotto per cui uomini vicini a Kennedy avevano alzato la temperatura dello studio per provocare maggiore traspirazione. Perché sapevano che lui sudava tanto. Perché sapevano che sudava tanto. Tutto è possibile. Certo, bisogna anche dire che quello è stato il primo dibattito televisivo nel momento in cui la televisione si stava affermando come strumento di comunicazione di massa regina, principe perlomeno delle comunicazioni americane e non solo, e bisogna anche dire che Nixon perse, ma perse per un'incollatura, mi verrebbe da dire per un pelo, se certo, non ci fosse diventato per un di labbro, per un labbro sudato, allora. Per un labbro sudato, potrebbe essere. Dunque, la televisione comunque è uno specchio che deforma la realtà politica, secondo lei, oppure ne restituisce l'immagine vera? Io credo che sia stata tutte e due le cose nel tempo. Ormai da molti anni la televisione è talmente parte della realtà politica che diventa difficile immaginare che possa restituirla in maniera trasparente e veritiera. Fa parte del meccanismo, fa parte del teatrino, e quindi in qualche modo è distorta quanto è distorta la politica di questi ultimi decenni. Ecco, professor Doglio, oggi la stessa immagine televisiva viene ripetuta all'infinito dai social. Quindi è la TV generalista in qualche modo che nutre i social. Senza dubbio, io credo che sbagliano quelli che dicono la televisione è finita, adesso è stato spazzato via dalla rete. No, la televisione in particolare in questi momenti rimane un medium fondamentale, perché è quella che crea il repertorio di immagini che poi vengono, che nutrono i social, e vengono diffuse attraverso i social e tutti gli altri strumenti della fruizione digitale. Quindi si potrebbe dire in qualche modo che il futuro è il passato più i social. Il futuro è il passato più i social. Però il primo che ha sfruttato in qualche modo significativo la potenzialità dei social in campagna elettorale è stato Obama. Però Obama subito dopo ha scelto i network, cioè in campagna elettorale tanto social, poi da presidente le reti unificate generaliste. Un bel passaggio. Però dobbiamo sempre tenere presente che nel frattempo è cambiato lo scenario dell'offerta televisiva americana. Quando si parla di reti unificate, noi pensiamo sempre alla televisione generalista classica, i 3-4 network nazionali. In realtà c'è una quantità di reti cavo satellite che tutti insieme costituiscono la possibilità di raggiungere quel 70-80% del pubblico, dei potenziali ascoltatori, che era l'obiettivo di Obama in questi discorsi. Ecco, professor Doglio, tornando alla sfida di questa sera, la Clinton porta con sé una grande esperienza in tema di dibattiti televisivi, 24 duelli alle primarie del 2008 con Obama, 9 confronti con Sanders, più quelli da aspirante senatrice per lo Stato di New York. Quanto è importante questa esperienza, questa conoscenza del mezzo, secondo lei? Beh, se dovessimo decidere io e lei, sicuramente è fondamentale. Chi non conosce il mezzo rischia grosso. Però lei ha davanti un soggetto difficilmente controllabile. E poi inedito, inedito. Che non solo conosce il mezzo, ma che dimostra di avere una capacità di sparigliare le carte che è sempre sorprendente. Certo. Da questo punto di vista, una certa rigidità che caratterizza il comportamento televisivo di Hillary Clinton potrebbe costarle qualcosa. Ecco, secondo la CNN, la Clinton sta divorando libri che riguardano Trump, cercando di scoprire dei dettagli da giocarsi avanti alle telecamere. Trump, anche lui, ha molte frecce nel suo arco, dallo scandalo delle mail alla salute precaria. Secondo lei si giocherà su questa improvvisazione più che sui programmi lo scontro? Assolutamente temo di sì, anche perché sui programmi la genericità di quelli che Trump ha presentato fino adesso è tale che non sarebbero candidabili a nulla. Certamente ci sarà il tentativo di rendere goffa la Clinton, di far vedere che ha delle debolezze, da far vedere che è una donna, cosa che negli Stati Uniti sembra che sia ancora un problema. Senta, anche in Italia vi fu nel 94, lo ricordiamo tutti, anzi tutti quelli che hanno una certa età, un duello televisivo decisivo tra Berlusconi e Occhetto. Vinse Berlusconi e fu la fine della macchina da guerra gioiosa del PC trasformatosi in PDS. Aveva sottovalutato la TV Occhetto, secondo lei, in quell'occasione? Completamente, o meglio, aveva una visione statica della televisione, non essendo uomo di televisione e non avendola praticata con la frequenza con cui adesso i politici la frequentano, ne era vittima, ed era vittima soprattutto di un signore che la televisione, quella commerciale, l'aveva, la conosceva perfettamente, conosceva molto bene, inventata. Non dico che l'avesse inventata per l'Italia, sì, ma certamente aveva introiettato in toto il modello americano, certo. E quindi sapeva come giocare. Però di interessante c'è che in un altro scontro televisivo di Berlusconi, questa volta con Prodi, l'uomo della televisione ha perso contro quello che allora tutti dicevano essere, prendendolo in giro quasi, il Mortadella. Ecco perché? Ma io credo che ci siano anche fattori di carattere storico e culturale. L'incontro-scontro con Prodi avveniva dopo un quadriennio in cui la stella di Berlusconi aveva volato molto alto, però c'erano in qualche modo cominciati tutta una serie di perplessità nei suoi confronti. La tranquillità, la forza tranquilla, come avrebbe detto il generale De Gaulle, con cui si presentò Prodi, e anche la preparazione, l'attenzione che aveva messo al confronto. E anche le regole del confronto. E anche le regole del confronto. Che sono molto importanti. Molto importanti. Senta, ma i politici che vanno tutti i giorni in televisione, secondo lei, fanno bene o fanno male? Secondo me hanno contribuito e stanno contribuendo alla disaffezione nei confronti della politica da parte della popolazione italiana. La svuotano di valore. Degli elementi di arredo. Però il problema è che non è neanche tanto colpa loro, il problema sono le televisioni che non hanno altro da offrire. Che gli offrono la possibilità di esprimere la loro vanità. Senta, la ringrazio professor Doglio, torneremo a parlare di Trump e la Clinton naturalmente mercoledì, quando ci sarà un vincitore e un vinto. Ecco, al di là di quello che sarà poi l'esito dei tre confronti, proprio Clinton e Trump in televisione, secondo te chi vince il confronto, Mario? Il confronto secondo me lo vince Trump. E secondo te, Pietrangelo? Lo vince Trump perché si identifica con il cittadino medio. Posso fare un esempio disneyano per spiegarmi meglio? Disneyano, sì. Perché l'idea è questa, cioè la situazione è questa. Rocker Duck, per esempio, le giovani marmotte, forse anche Topolino, questi votano per Hillary Clinton, ma Paperino, Paperoga, la banda Bassotti e pure Gamba di Legno voteranno per Trump. E quindi vedremo. Intanto, riferito al rapporto, al referendum del Catonticino, c'è un signore che ci scrive una cosa interessante. La mia azienda italiana lavora per aziende del Catonticino. Le autorità svizzere, dice, ci hanno chiesto di dimostrare che i dipendenti che mandiamo per fare consulenza percepiscono un reddito mensile medio lordo di 4.000 euro. Su 4.000 euro c'è la discriminante all'ingresso in Canton Ticino. Questa cosa mi sembra abbastanza interessante. Questa è una lezione, perché dimostra che c'è sempre qualcuno più a nord di me. Esattamente. E Fabio Di Marostica ci fa gli auguri e si preoccupa per la mia raucedine, la imputa alle vacanze. Mi dispiace, non è vero, l'aria condizionata. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. State ascoltando un programma offerto da borsadelcredito.it, il modo migliore per far crescere i tuoi risparmi. Mix 24. E allora Pietrangelo, la eccola, prima dedica dell'anno arriva. There's no need to fear me, darling, I love you as you are when you're alone. Allora, Pietrangelo? E allora c'erano tanti fantasmi oggi nel levarsi dell'alba. Chiacchieravano, facevano chiasso come se fosse piena movida invece che proprio l'avvio della giornata operosa, e cercavano di calcolare in tutti i passanti la paura più grande, quello che poteva provocare spavento. E ciò che provocava spavento era calcolare l'esatta mancanza di ciò che manca, cioè i dettagli che sono tutto nell'amore. Ed è sbucato tra i fantasmi chi? Sancho Panza. E mi ha detto: per favore, in radio metta questo brano, e la dedica è tutta per Valentina. Ah, Valentina, è tornata anche lei insieme a noi, tornata alla grande. Vabbè. Tu Mario, la tua bolla, da dove partiamo oggi? Come ti abbiamo visto ieri sera, brillantissimo, grazie, in televisione. Grazie. Ma sei stato bravissimo. Ma mi raccomando. Che carino, ti bacio tutto. Se va bene. Come on. We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that. Allora, eccoci qua. Questo è un bel pezzo, un bel successo di questo momento. C'è anche Selena Gomez che canta ed è brava. E Giovanni, qua non si parlano, e quando si parlano le grandi potenze, devo dire, sbagliano. Ma insomma, tu conosci Samantha Power? Insomma, personalmente non l'ho mai invitata a cena, però. Ma è una tipetta tosta. Fa l'ambasciatrice all'ONU per gli Stati Uniti d'America, e devo dire, ha scoperto che le bombe uccidono. Questa è, devo dire, una scoperta molto interessante, visto che gli Stati Uniti in fatto di guerra non sono secondi a nessuno, e ha lanciato la sua accusa contro Putin. Testuale, dice Samantha Power, l'azione della Russia in Siria è barbarie, non antiterrorismo. Invece di perseguire la pace in Siria, Mosca e Assad fanno la guerra. Allora, devo dire, da giornalista confermo, sì, fanno la guerra, come gli americani hanno bombardato una postazione dell'esercito siriano, per esempio, come i 116 civili uccisi dai droni durante gli strike dell'amministrazione Obama, per esempio, come il bombardamento dell'ospedale di Kunduz in Afghanistan. Vabbè, la guerra è brutta, sporca e la cattiva. La guerra è così, allora, alla fine non risparmia nessuno, neppure l'ipocrita. Esatto, mi sembra proprio, però è interessante, prima del salamino di Pietrangelo volevo leggere un messaggio che ci è arrivato, che del nostro ascoltatore. Dice: Hillary Clinton non è una donna, una vecchietta malata, gonfia, si vede, egoista, che ha convinto Biden a non candidarsi, piuttosto meglio Michelle Obama. Accidenti, dura, però non è amata, non segnale, vabbè. È percepita come l'establishment. Pietrangelo, salamino. prima i nostri, ed è scritto in italiano, ma non si tratta di italiani, lo abbiamo ricordato prima, passa col 58% dei consensi il referendum svizzero contro i frontalieri. Appunto. Ed è un voto contro gli italiani, ed è anche un dato politico, ed è pesante negli equilibri dell'Europa. C'è stata pure la protesta di Gentiloni, che abbiamo registrato. Insomma, è lo stop al lavoro di 62.000 italiani, prevalentemente lombardi e piemontesi, che sono un quarto del totale dei lavoratori nel cantone svizzero. Allora, la cosa è curiosa perché c'è da fare la comparazione. Cioè, per esempio, i titoli dei giornali svizzeri da tempo suonano offensivi verso gli italiani, ed è tutto un prima i nostri, ed è sempre scritto in italiano, ma, e qui bisogna fare un po' di confusione, non si tratta di nostri, ma degli altri che sono loro, e gli altri adesso che sono loro, mentre gli italiani diventano gli altri. Insomma, tanto più si grida prima gli italiani, quanto più può capitare che qualcuno gridi ancora più forte prima i nostri. E torna ancora una volta, caro Giovanni, quel capolavoro che fu Pane e cioccolata, il film di Franco Brusati del 1973 con un grandissimo Manfredi. Fate passare un piccolo posto per chi non trova posto da nessuna parte. Giovanni Garofoli, invitami informazioni. Forse cercanomi, come ti chiami te? Giovanni Garofoli. Allora è probabile. E che vorrai? Che ti importa, non c'è nà. Può essere pure una buona notizia. In tedesco. Ma quando mai? C'ha ragione, voi non mi avete visto, O trovare un posto per chi non trova posto. Prima gli italiani, ma gli altri siamo noi. Allora, la storia delle migrazioni italiane e svizzera è antica assai. Ha accompagnato due secoli di modernità. Si fece le ossa lì, per esempio. Però il nome proprio ce l'ho sulla punta della lingua, non me lo ricordo. Si fece le ossa lì per essere arrestato e cacciato un rivoluzionario di Romagna. Come si poteva chiamare? Un rivoluzionario di Romagna che poi diede l'orgoglio, insomma, non mi ricordo questo nome. Era socialista. Muratore svizzera. Bellinzone. Muratore. Giornalista abile. Abile, però ce l'ho sulla punta sulla lingua. Abbiamo detto, stiamo calmi, non si può dire. Allora, i giornali svizzera titolano contro gli immigrati. E gli immigrati lì chi sono? Siamo noi. Dice: la nostra posizione ricalca quella della Brexit, così strilla la destra in Svizzera, che poi strilla dappertutto allo stesso modo, strillano tutti in un modo uguale. Insomma, adotteremo, risponde chi? Roberto Maroni, adotteremo delle contromisure. Ma di chi? Maroni, in difesa degli immigrati. Questa è una bella notizia. Sì. E così pure chi? Un esponente dolce, soave, bellissima del centrodestra, Lara Comi, che invita le aziende italiane a fare i bagagli. Ha sempre ragione chi? Il grande filosofo. La filosofia dà sentenza su tutti, ed è Bella Vista che così parlò. Se mi danno il tè la mattina è come se mi dessero una sberla. È mia moglie che ama il tè, ma sa, lei è tedesca e i tedeschi, caro professore, non sono come noi. Si è sempre meridionale di qualcuno. Infatti anche Tonio ce l'ha scritto: siamo sempre i terroni di qualcun altro, certo. Che mi pare, vai con la bolla, Mario. Sì. Ce n'è un'altra? Se capitate a Broadway, vi consiglio di andare a vedere questo musical bellissimo. È la storia di Hamilton, uno dei fondatori degli Stati Uniti. Fu ucciso in un duello, nonostante lui avesse rifiutato di farlo in realtà. È un grande Lin-Manuel Miranda, la voce. Sentite ancora un po'. Ok, Giovanni, My Shot è anche un colpo per dire che forse sul petrolio bisognerà pur fare qualcosa. Il prezzo continua a essere molto basso, in questo momento è diminuito di nuovo, aveva toccato i 50, li aveva anche superati, e poi adesso è a 45 al barile. Domani c'è un appuntamento abbastanza importante, non decisivo purtroppo, a Algeri si vedono i paesi produttori. Il prezzo del petrolio, come dicevo, è molto basso. Io ho visto e sentito appunto il segretario generale dell'OPEC, che era qua a Roma qualche giorno fa, esprimere ottimismo, vediamo che cosa succede. Lo scenario è sempre quello: i sauditi e gli iraniani stanno combattendo. L'Iran è appena entrato nel mercato, vuole la produzione alta, i sauditi sarebbero, diciamo, vabbè, virtualmente disposti ad abbassarla. Chi medierà? Chi la medierà? Russia. Lo vedremo. La Russia. Per forza. Ma hai visto, per che quelli, hai visto Pietrangelo, che quelli importanti lui li vede e incontra sempre. Ma veramente fantastico. Vabbè, no, lo trovo, beh, per fortuna sei qui con noi. Infatti, dovendo scegliere tra... Era la, pensa, era la prima uscita pubblica del no, no, vabbè, ma non ti devi giustificare una cosa intelligente. Mario, Mario, potendo scegliere tra chi vedere, tra Gentiloni e Lavrov, chi vedi? Lavrov. Una domanda mi sembra... Un genio. Però rispetto al discorso che facevamo nello scontro Hillary contro, sì, Trump, sì, Lucio da San Sepolcro fa un'osservazione, dice: se l'intermediazione tra vertice è base della politica, rimane lo scontro televisivo e si vota in conseguenza di quello, siamo complici della crisi di rappresentanza. Cioè una critica interessante alla democrazia, alla democrazia. Però faccio televisiva. La domanda contraria, sì, anche se io sono critico anche io su questo, però la domanda contraria, cioè, è meglio se... i comizi in piazza, no, e se non ci fosse, cioè, non lo so, sarebbe peggio, cioè, c'è sempre una misura, secondo me. Va bene, canzoniere Pietrangelo. Laudata sì pel tuo viso di perla, o sera, e pei tuoi grandi umidi occhi ove si tace l'acqua del cielo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS al primo giorno. Pietrangelo, un aiuto, va, dai. L'aiuto? Un aiutino? È Gassman, Vittorio Gassman, quello che legge. Quello che legge, sì. Quello che legge che cosa? Quella roba lì? Quella roba lì che, vabbè, un aiuto lo do. Dai. L'autore è Di Pescara. È Di Pescara, quindi ragazzi, è facile. Un gaudente. Possiamo farcela. Viabilità intanto. Acerta, indaga, documenta, accerta. www.acerta.it vi presenta. Mix 24. Bentornati a Mix 24. Ecco, fin qui abbiamo parlato molto della Hillary Clinton politica, della candidata, ma se l'8 novembre gli americani decideranno di votare la sua candidatura, quella di Hillary sarà un ritorno alla Casa Bianca, perché ricordiamo che per 8 anni, dal 93 al 2001, è stata a fianco del marito Bill, che è stato il 42esimo presidente degli Stati Uniti, e come molte first lady, abbiamo visto anche Michelle, ha svolto il ruolo di confidente, di consigliera. Oggi il copione si recita però a parti rovesciate, ed è Bill, e questa è una novità assoluta, a collaborare al fianco della moglie e al suo successo. Ma come nasce la loro storia d'amore? La prima volta che ho visto Bill Clinton è stato nel corridoio davanti alla biblioteca della facoltà di legge a Yale. Era circondato dai compagni di corso, cercavano di convincerlo a collaborare al giornalino della facoltà. Lui li ascoltava educatamente, ma guardava me e io guardavo lui. Ero seduta su uno di quei lunghi tavoli a studiare e alla fine ho pensato: mi sembra un po' una situazione assurda. Poi Hillary ha messo via il libro e ha detto a Bill: se dobbiamo continuare a fissarci così, sarà almeno il caso di presentarci. Io mi chiamo Hillary Rodham. E tu come ti chiami? Io non ricordavo più il mio nome. Lo trovai molto, molto attraente, simpatico. Era una persona che mi spronava di continuo e mi faceva stare bene. Io devo ammettere, non ho mai conosciuto nessuno come Bill. Insomma, un legame nato nelle aule universitarie, che ha saputo resistere a scandali, tradimenti. E dopo il giornale radio, per i gialli della storia che ricominciano, noi racconteremo questo ritratto di Bill e Hillary Clinton, della loro lunga, lunghissima storia d'amore e di potere. Ma intanto abbiamo Giampaolo da Milano per il canzoniere. Giampaolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora? La sera fiesolana di Gabriele D'Annunzio. Giusto. Perfetto, bravissimo. Bravissimo. Il primo della stagione. A Milano, che tempo fa a Milano? Bellissimo, stupendo. Fa caldo? No. abbastanza. Sì. Comunque questo è un retaggio del classico, sono un ingegnere che ha fatto il classico, l'ha fatto con molta passione. Ed è stato duro il Politecnico per uno che viene dal classico? Direi di no. No? Direi di no. Ah, no. Va bene. Ok, grazie, buon lavoro. Intanto Mario, c'è ancora una bulla? Sì, vai. Rapida. Ma chi gli ha preso a Cromwell di fare un giro di conferenze? Perde 60 milioni a trimestre. Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse mare non morirebbe più nessuno. È solo un chiodo per appendere un futuro quadro. Nessuno si ricorda più della Turchia. La lira turca è crollata nel weekend e oggi perché Moody's ha downgradato i titoli di Stato a spazzatura. Ah. E forse è il caso di tornarci in futuro sul futuro della Turchia, che è morto. E del ruolo che sta avendo molto molto interessante nel rapporto con l'Europa, sì. Ma intanto anche quest'anno, come lo scorso anno con il professor Roberto Bernabei, torniamo a commentare le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA, luglio 2016. Stimolazione ovarica per la fertilizzazione in vitro e rischio di cancro al seno. Abbiamo sentito in questi giorni le polemiche per il Fertility Day. Certo è che il problema della fertilità è un problema che oggi cresce esponenzialmente, vista la tarda età in cui si fanno i figli e visto il fatto che ci sono molte tecniche alternative alla gravidanza cosiddetta tradizionale, tra cui è importante quella della fertilizzazione in vitro, che però può avere una serie di problemi. Allora questo lavoro è andato proprio a vedere se la stimolazione ormonale, una stimolazione massiva che viene fatta per avere un alto numero di ovociti che siano poi eventualmente fecondati, se questa stimolazione ovarica con ormoni produce il danno, e il danno qui più diretto e più collegato è quello del cancro della mammella. Sono state viste oltre 19.000 donne sottoposte a fertilizzazione in vitro, comparandole con la popolazione generale che non aveva avuto la fertilizzazione in vitro e 5.900 donne che avevano avuto dei trattamenti generici per la fertilità ma senza la stimolazione ormonale. Bene, l'outcome, cioè il risultato dello studio, era andare a vedere se c'erano più cancri della mammella in chi è che aveva fatto la fertilizzazione in vitro. Questo non si è visto a rassicurare chi è che si sottoponga a questa tecnica. Ricordiamoci però sempre che queste tecniche hanno delle percentuali di successo che non sono altissime, e quindi non è che la tecnica ci risolve tutti i problemi e ci assicura un figlio comunque. E per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi oggi? Ho scelto una canzone trovata in una larga spiaggia, perché ci tengo a ricordare che l'estate è appena ieri. Questo è un brano di Vasco Rossi cantato da Chiara Civello ed è per i narcisi che amano con distrazione. Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera, dai. Non andare via, oh oh. Non inventare adesso un'altra scusa, un'altra bugia, oh oh. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità, forse stasera una sera che ti sentivi solo e sei venuto qua. Non eri tu che dovevi partire, non tornare più. Non eri tu che in fondo è come salire, basta non guardare giù. Va bene.